velate di dolce passione. Quante lusinghe ci dà chi ci vuol bene, ma fra le tante tu sola, signora illusione, ci dai la gioia d'amor senza farlo. Illusione, dolce chimera sei tu, che fa sognare in un mondo di rose tutta la vita. Illusione, è il profumo che invita, d'una bocca setata e la credi baciata soltanto da te. Frasi d'amore, di fedeltà, che un altro cuore ripeterà. Illusione, dolce chimera sei tu, che fa sognare, sperare ed amare tutta la vita.